La vita è un grande volo e a volte serve un colpo d'ala per farci crescere, salire un po' più su o solo capire che il vento è più forte di noi. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il patto del Nazareno, così come l'avevamo interpretato fino ad oggi, noi lo riteniamo rotto, preferite, scegliete voi come possiamo dire, congelato, finito. Fine di un matrimonio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo avete sentito Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia, eurodeputato, che oggi ha detto basta, insomma, dopo questo caos seguito alla candidatura e poi l'elezione di Sergio Mattarella, Forza Italia rompe il patto del Nazareno, perché nel patto del Nazareno, ha detto giorni fa anche Verdini, c'era anche il nome del Presidente della Repubblica. Voi credete effettivamente che questo patto del Nazareno sia rotto, come dice Giovanni Toti? Ci sono sempre due canali di comunicazione, quindi se volete a Effetto Notte, la pagina Facebook che porta il nome del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete commentare al 349-238-6666, il numero per i messaggi, 349-238-6666. Secondo voi è effettivamente rotto il patto del Nazareno? Non è una cosa così un po' di facciata? E se fosse rotto, quali potrebbero essere le conseguenze? Ne parleremo questa sera anche con l'onorevole dissidente di Forza Italia, Raffaele Fitto. Più tardi poi parleremo anche di questa big snow che dovrebbe arrivare, questo maltempo, un sacco di centimetri di neve. Parleremo anche, torneremo a parlare di un caso misteriosissimo, il caso misteriosissimo di Majorana. Vi ricordate il fisico geniale dato per scomparso nel nulla nel 1938? L'hanno cercato in tantissimi, scritto libri, film, eccetera. Pare adesso la questione sia archiviata perché la procura di Roma dice quell'anno lì, quando era dato per morto, invece era vivo. Ne parleremo con un autore, un ricercatore, un professore che insomma ha raccolto molte testimonianze, molti documenti su di lui, moltissime cose. Quindi non vi allontanate da Effetto Notte per nessun motivo, non spegnete, non girate, rimanete qui, anche perché all'inizio, come sempre, vi faccio un sunto di questa giornata. Salta il patto del Nazareno, il PD replica meglio così. Fitto di Forza Italia, qui Effetto Notte tra poco, torna a chiedere primarie, azzeramento delle cariche. Il tour europeo di Tsipras, il primo ministro greco fa tappa a Bruxelles e Parigi, probabile riunione dell'Eurogruppo sulla Grecia l'11 febbraio. Il pilota arso vivo dall'ISIS, la Giordania si vendica, impicca la kamikaze del sedicente Stato Islamico, ed è notizia di poco fa che ha bombardato la Giordania Mosul. Taiwan, un aereo urta un ponte dopo il decollo, 25 morti, 18 dispersi. Il caso Majorana, la procura di Roma accerta che fuggì in Venezuela nel 55 e archivia l'inchiesta. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta a 59 anni l'attrice Monica Scattini, protagonista di tante commedie, anche in TV vinse il Nastro d'Oro e Davide di Donatello. Maltempo, in arrivo la neve, temporali e mareggiate, la protezione civile ha lanciato una nuova allerta meteo. E per il calcio, la sfida di Coppa Italia questa sera è tra Napoli e Inter. E sempre in primissimo piano, naturalmente, la politica, con l'annunciata fine, come abbiamo sentito, del patto del Nazareno come risultato delle polemiche a distanza tra PD e Forza Italia e dentro Forza Italia. La debacle sul voto per il Quirinale trascina Forza Italia nel caos, tanto da far naufragare il patto del Nazareno. Il sostegno di Silvio Berlusconi alle riforme non è più scontato e la decisione matura al termine di un ufficio di presidenza ristretto, convocato dallo stesso Cavaliere a Palazzo Grazioli. Ad annunciarlo Giovanni Toti. Il patto del Nazareno, così come l'avevamo interpretato fino ad oggi, noi lo riteniamo rotto, congelato, finito, non lo so. Noi non ci sentiamo legati, come fino adesso è successo. successo a condividerne un percorso nel suo totale. Detto ciò, non faremo i kamikaze, voglio dire, le riforme istituzionali, la fine del bicameralismo e la legge elettorale sono patrimoni di questo paese, ma non ci sentiamo di dover votare tutto e per forza. Precedentemente la conferenza stampa di Raffaele Fitto, che chiedeva l'azzeramento totale degli organi di partito alla luce della fallimentare linea del dialogo sulle riforme. Il nostro partito ha sbagliato tutto. Oggi abbiamo bisogno di due elementi decisivi. Il primo, cambiare linea politica. In secondo luogo, azzerare la dirigenza del partito. Noi abbiamo bisogno di gente che non venga nominata, ma di gente che venga eletta. Sarcastico il commento del vice segretario PD Deborah Serracchiani. Arrivare al 2018 senza Berlusconi o Brunetta è meglio, mentre più possibilista è il ministro delle riforme Maria Elena Boschi. Se Forza Italia ci ripensa, siamo qui. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi vi ricordo ancora una volta che dopo dovremo raggiungere il eurodeputato di Forza Italia Raffaele Fitto. Intanto il Presidente del Consiglio Renzi procede, guarda le riforme, ha in progetto di creare un ministero per il Mezzogiorno, mentre la Germania continua a lodare il piano di riforme. La rapida elezione del nuovo Presidente della Repubblica in Italia può dare impulso alle riforme, ma le prospettive di crescita dell'economia restano deboli. È una promozione a metà per il nostro Paese, quella che arriva da Fitch. Secondo l'agenzia di rating, l'elezione di Mattarella dovrebbe permettere a Governo e Parlamento di concentrarsi sulle riforme istituzionali ed economiche, interventi strutturali i cui benefici si faranno però sentire solo nel medio periodo, spiega Fitch, secondo cui la prospettiva economica a breve termine resta invece fragile per l'Italia, il cui potenziale di crescita deve fare i conti con problemi strutturali di lunga data. L'agenzia avverte però che la decisione unilaterale del Premier Renzi di candidare Mattarella potrebbe anche avere ripercussioni negative sulle riforme, viste le tensioni all'interno della coalizione di governo e con Forza Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo alla Grecia, il primo ministro greco che continua a Tsipras il suo tour europeo. Le tappe di oggi sono state Bruxelles e Parigi. A Francoforte intanto il ministro delle finanze greco Varoufakis ha visto il presidente della banca centrale Draghi. I'm very optimist that we'll try to do our best. Troveremo una soluzione rispettando gli impegni, si dice ottimista il premier greco al termine dei suoi incontri a Bruxelles con il presidente della commissione del consiglio UE, infine con quello dell'Europarlamento. Non abbiamo ancora un'intesa, ma stiamo andando nella giusta direzione, dice il leader greco. Del resto l'accoglienza è stata calorosa, baci e abbracci con Juncker, che lo prende addirittura per mano a favore di telecamere. A lui Tsipras assicura che Atene vuole correggere ma non smantellare il quadro delle regole europee. Rispetteremo le scadenze con la BCE, ma ridaremo i soldi quando l'economia tornerà a crescere. L'obiettivo è quello di rinegoziare 240 miliardi del salvataggio internazionale. Stesso concetto usato dal ministro delle finanze greco Varoufakis nel suo incontro a Francoforte con Mario Draghi. Un colloquio fruttuoso lo definisce il ministro, che lancia l'idea di un piano Merkel sull'esempio del piano Marshall. Del resto, spiega, gli USA all'epoca condonarono la maggior parte dei debiti alla Germania. La vera partita, si sa, è ora con Berlino, da dove la cancelliera Merkel sollecita proposte concrete, dove Varoufakis domani incontrerà il ministro delle finanze tedesco Schäuble. Intanto da Parigi il presidente francese Hollande, al termine del suo incontro con Tsipras, lancia un appello affinché l'Europa sia più solidale e più rivolta alla crescita. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore. E torniamo a parlare della terribile morte del pilota ostaggio dell'ISIS. Il Presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio al re di Giordania Abdallah II, ha scritto: sono certo che la tragica morte del tenente Giordano e il grande dolore sofferto dalla sua famiglia rafforzeranno ulteriormente l'unità del popolo giordano e la collaborazione della comunità internazionale per sconfiggere la piaga del terrorismo. E poi ira e indignazione per questo atto così brutale anche da parte dei principali leader religiosi islamici, il giorno dopo la diffusione del video che mostra per l'appunto la morte del pilota Giordano bruciato vivo. Sentiamo l'analisi di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. L'Occidente è in guerra contro il terrorismo, ma soprattutto lo sono gli stati e le popolazioni del mondo arabo musulmano, come dimostrano le rabbiose reazioni al rogo barbarico del pilota Giordano, l'impiccagione di due terroristi decisa da Amman in risposta all'ISIS e la scomunica del grande imam egiziano di Al-Azhar, secondo il quale i miliziani devono essere uccisi, crocefissi e mutilati. Ma prima che il Medio Oriente generi altri mostri in una parte del mondo dove già abbondano, bisogna interrogarsi su quanto sta accadendo. Gli stati arabi non sono in lotta soltanto fuori dai confini contro il califfato, ma soprattutto dentro le loro stesse società, divise, disgregate, contenute in frontiere spesso artificiali e ingannevoli. soffocate da monarchie e autocrazie che oscillano tra la tentazione di usare la dittatura come barriera al disfacimento e timide aperture liberali. Ecco perché la coalizione con gli arabi contro il califfato è vulnerabile e fino a questo momento incapace di abbattere la barbarie dei jihadisti. Parleremo poi anche della situazione sempre più preoccupante dell'Ucraina, se ci sarà tempo dopo. Intanto parliamo anche dell'incidente aereo a Taiwan. È salito a 25 il bilancio delle vittime di questo incidente che ha coinvolto un velivolo della taiwanese Transasia Airways a Taipei. Sono 15 sopravvissuti portati negli ospedali delle città, mentre si cercano ancora 18 dispersi. Sul volo c'erano in tutto 58 persone. L'aereo ha urtato un'autostrada sopraelevata prima di precipitare nel fiume sottostante e di spezzarsi in più tronconi. Lo schianto si è verificato pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Taipei. Con la cronaca torniamo sulle notizie italiane col caso Majorana, il famoso fisico catanese scomparso nel nulla, vi dicevo, nel 1938, ma che per la Procura di Roma era vivo fino al 1959. Di questo poi parleremo con un esperto. Invece adesso un esperto di previsioni meteorologiche, Paolo Corazon. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, buonasera Roberto, buonasera a tutti, eccomi. Senti, maltempo, neve, temporali, mareggiati in Italia, acqua alta a Venezia, che è un classico, diciamo, dell'inverno italiano, protezione civile che dà un nuovo allerta. E poi questo annuncio di Big Snow, che solo a sentirlo irrita anche un po', questo Big Snow all'americana, bravissima, perché non possiamo dire che arriva un sacco di neve praticamente. Esatto. In realtà, guarda, in effetti andiamo incontro a una forte fase di maltempo. La neve sarà uno degli elementi, ma non dimentichiamo che le piogge che stanno già interessando il centro-sud alcuni giorni insisteranno, e quindi anche per le regioni centro-meridionali altra acqua in arrivo, altri temporali sul versante tirrenico, che la situazione in alcuni casi potrebbe essere anche preoccupante tra Toscana, Lazio e Campania, quindi non c'è solo l'aspetto neve, anche perché al centro-sud ci saranno anche venti forti, mareggiate, temperature in diminuzione, quindi un po' tutta l'Italia è da tenere sott'occhio. Per quanto riguarda la neve, è attesa sul nord Italia anche a quote molto basse, e localmente anche in pianura, in particolare tra il Piemonte, la bassa Lombardia, l'Emilia, addirittura anche la Liguria, che potrebbe vedere qualche fiocco di neve anche sulle coste. Nevicate che in alcuni casi saranno anche importanti, arriveranno anche a 20-30 centimetri tra il basso Piemonte e l'Emilia. A mio parere, nelle grandi città di pianura grossi disagi non si dovrebbero creare, perché le temperature non sono bassissime, però appena ti alzi un attimo 200-300 metri, allora sì, imbiancherà bene, si vedranno dei paesaggi invernali sul nord Italia, ma ti ripeto, situazione che per i prossimi 48 ore sarà da tenere monitorata da nord a sud. E allora monitoreremo, grazie Paolo Corazon. Ciao Paolo. Grazie, ciao ciao ciao. Buon tempo a te. C'è una svolta sulle unioni civili per quanto riguarda Flavio Tosi, sindaco leghista di Verona, forse primo in Italia tra i colleghi del Carroccio, che ha annunciato che la città scaligera tra pochi giorni avrà un registro per le coppie di fatto, eterosessuali o omosessuali che siano. Tosi si appella a una legge del 1989 che prevede questa possibilità, che a Verona sarà presto quindi effettuata e attuata. Questa è la svolta di Tosi. E c'è un lutto nel mondo dello spettacolo. A 59 anni, dopo una lunga malattia, è morta l'attrice Monica Scattini, figlia del regista Luigi, protagonista di molte commedie anche in TV. In teatro recitò anche dei ruoli drammatici. Vinse il Nastro d'Argento per Lontano da dove e il Davide Donatello per Maniaci Sentimentali. Ultimo film di quest'anno, del 2014, Una donna per amica, e i funerali ci saranno sabato. In chiusura c'è la Coppa Italia, c'è Carlo Genta che ci dice come sta andando la partita tra Napoli e Inter. Carlo, sorprese? No, no, per il momento no Roberto, 0-0, 28esimo del primo tempo, c'è un palo per l'Inter colpito dai Cardi al 12esimo. Partita molto equilibrata, non bellissima, però Inter sorvegliata speciale, Napoli detentrice della Coppa, gioca in casa, ripeto, partita che non ha offerto tante emozioni fino adesso, 28 minuti di gioco, c'è stato questo palo, uno sparo nel buio, un lampo nel buio di Icardi al 12esimo, poi per il resto partita ancora molto in bilico, molto, molto sentita, 50.000 spettatori a San Paolo, c'è tanta gente per questo quarto di finale di Coppa Italia, Roberta. Grazie Carlo, poi ci aggiorniamo dopo per capire se è sempre in bilico o pende da una parte del tutto. E intanto leggo velocemente, prima di aggiornare la viabilità, molti vostri messaggi che stanno arrivando sul fatto se sì o no questo patto del Nazareno, se sia effettivamente rotto come ha detto oggi Toti e quali potrebbero essere le conseguenze. Anna di Rivoli, Torino, dice: magari fosse rotto questo maledetto patto, non ho votato centrosinistra per governare con Berlusconi. Poi un altro messaggio: Renzi in Parlamento ha i pochi voti presi da Bersani, segretario, quindi si deve arrangiare per fare riforme con alleanze parlamentari. Il Movimento 5 Stelle non volle far nulla. Sempre i messaggi a 349-238-6666. Renzo dice: questo patto è un ibrido, un connubio, meglio se si rompe. Antonio: ieri nessun politico conosceva il contenuto del patto del Nazareno, ora quindi costoro, parlando di rottura, possono spiegare il perché della rottura in funzione dell'accordo originale violato e svelarne dunque punti salienti. E poi anche sulla pagina di Effetto Notte, T. Barlet dice: non credo assolutamente che sia rotto, visti i contraenti, è tutta una farsa. Anche Andrea dice: sceneggiate napoletane. Giuseppe: bleffano tutti, ci prendono in giro. Antonio: le conseguenze sono che hanno rotto. Giuseppe: fanno finta di litigare per far contenti gli elettori. Arianna dice: io devo ancora capire, dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che cosa sia esattamente questo patto. Mi viene in mente una vignetta che girava su Facebook tempo fa. Cos'è il patto del Nazareno, dice Arianna? Il Vangelo secondo Matteo con la prefazione di Silvio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci insieme. Un altro messaggio: 349-238-6666. Si potrebbe sentire la radio per equità anche personalità a favore della continuazione dell'accordo attuale di governo. Veramente abbiamo sentito un po' tutti: il Movimento 5 Stelle, il Nuovo Centrodestra, Quagliarello in questi giorni, tra poco ci sarà Fitto, poi Boschi e Lotti del PD dicono: ma meglio così se si rompe. Insomma, vi riassumo brevemente le notizie. Il patto del Nazareno si sfalda, è scontro totale tra PD e Forza Italia. Totti dice: per noi è rotto. Lotti e Boschi: meglio così. Tsipras: con l'Unione Europea stiamo prendendo la strada giusta. Per l'Unione Europea il PIL dell'Italia 2015 cresce dello 0,6%, il deficit scende a 2,6%, anticipazioni prevedono però un tasso della disoccupazione che salirà al 12,8%. La Giordania si vendica per il pilota giustiziato e quindi impicca la kamikaze dell'ISIS. E poi notizia di poco fa: bombardamenti della Giordania su Mosul. Un aereo a Taiwan urta un ponte dopo il decollo, 25 i morti. Luce sul mistero di Majorana, era vivo dopo la scomparsa, rivelazione della Procura di Roma, ne parleremo tra poco. E poi addio a Monica Scattini, attrice di tante commedie del cinema e della TV. Quindi andiamo sulla politica. Voi sapete, di questi giorni abbiamo parlato più volte di questa forte turbolenza che percorre il centrodestra, soprattutto dalla candidatura e poi dalla successiva elezione di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica. C'è l'alleato di governo del PD di Renzi, il Nuovo Centrodestra, che ha vissuto un certo travaglio durante le votazioni per Mattarella, cambiando posizione varie volte, prima la scheda bianca, poi alla fine hanno votato per Mattarella, ma non tutti, infatti ci sono state poi delle dimissioni. Nuovo Centrodestra che ora si chiede cosa farà da grande, ha un bivio, come ci diceva ieri Quagliariello, il coordinatore nazionale di Nuovo Centrodestra, e dall'altra parte, sempre il centrodestra, il caos in Forza Italia, anzi qualcuno parla di scontro finale, di resa dei conti, con Raffaele Fitto, ex governatore della Puglia, europarlamentare di Forza Italia, considerato il dissidente numero uno della linea di Silvio Berlusconi e del patto del Nazareno, che torna a farsi sentire oggi in conferenza stampa all'indomani della gestione di questa trattativa del Quirinale, che ha visto Forza Italia subire la candidatura di Sergio Mattarella da parte di Renzi. Ha detto, ha ribadito questa sua posizione critica dentro Forza Italia, ha chiesto la svolta e di azzerare tutte le cariche. Buonasera onorevole Fitto. Buonasera. Insomma, lei continua coerente con la sua linea fortemente critica nei confronti di Berlusconi, del patto del Nazareno. Oggi l'ha detto ancora in conferenza stampa che va azzerata la classe dirigente del partito, che ci vuole un cambio di linea relativamente al patto del Nazareno. E intanto Berlusconi aveva riunito un ufficio di presidenza molto ristretto, come le sai, i suoi fedelissimi, che hanno i vertici, hanno rimesso il mandato nelle mani di Silvio Berlusconi, le dimissioni, insomma, che lui poi ha respinto, quindi confermando che questa è la classe dirigente. Allora, a questo punto Toti ha detto il patto Nazareno è rotto, il consigliere politico di Forza Italia. Qualcosa sta cambiando, quindi? Qualcosa cambia? Ma, guardi, andrei per ordine. Noi siamo reduci da sei mesi di errori clamorosi sulla linea politica, uno più importante dell'altro. Io insieme a tanti amici da molto tempo sottolineo tutto ciò e abbiamo cercato in tutti i modi di evitare questi errori sulla legge elettorale, sulle riforme costituzionali, sulla partita del Quirinale, cercando di mettere in guardia il nostro partito, Berlusconi, di quello che stava accadendo. Siamo stati inascoltati, ma coerenti sulle nostre posizioni, sia per il merito delle questioni. Qui non si tratta di essere contro o a favore delle riforme, siamo tutti per le riforme, ma si tratta di leggere il merito delle riforme. Le riforme si fanno in due, un patto si stabilisce con due contraenti, invece in questa situazione c'è chi decide come cambiare ogni qualvolta lo decide autonomamente le posizioni, cioè Renzi, e chi accetta, Forza Italia, in qualsiasi momento tutto ciò che viene indicato da parte loro. Ed è il primo tema. La seconda questione riguarda, oltre al cambio di linea politica, il fatto di rendere chiara e percepibile ai nostri elettori la posizione di opposizione. Io penso che questo non venga compreso dai nostri elettori. E a questo una riflessione più completa, che è quella collegata a chi deve guidare e portare avanti questa linea politica, cioè una classe dirigente che, per quanto mi riguarda, oltre ad essere delegittimata dal punto di vista statutario, perché non esiste una legittimazione ed una legittimazione di questo, di questa classe dirigente da parte dello statuto del partito, esiste anche un problema di carattere politico. Non si può essere a fasi alterne, un giorno pro Nazareno, il giorno dopo contro il Nazareno, la mattina per le riforme, il pomeriggio all'opposizione. C'è bisogno di resettare un po' tutto, di azzerare tutti gli organismi e di investire un meccanismo che è quello che vede nel nostro partito le nomine dall'alto, e invece mettere in campo un meccanismo per il quale ci siano delle nomine dal basso, cioè la gente elegge i propri dirigenti. Cioè le primarie, dice da tempo. Diciamo, io le chiedo da tempo, il congresso, le primarie, insomma una legittimazione democratica che modifichi questo meccanismo. Ma a questo punto mi pare che Berlusconi ancora, le primarie non gli sono mai piaciute, mi pare che anche questa volta forse gli entra da un orecchio e esce dall'altro. Berlusconi, è possibile che per il leader di Forza Italia ultimamente, Renzi sa, probabilmente ha approfittato un po' di questa debolezza, forse può essere che il punto più importante sia avere l'agibilità politica più ancora che capire... Questo glielo auguro al presidente Berlusconi, perché penso che sia un fatto grave quello che è accaduto nel passato, e personalmente ho difeso con forza le posizioni di Berlusconi. Qui si tratta però di mettere in campo una prospettiva politica. Non esiste un partito che può immaginare di raccogliere consensi se non ha e non dà l'idea della prospettiva futura. E su questo noi giochiamo molto. E allora possiamo pensare di andare avanti in questo modo? Io ritengo di no. E la nostra battaglia andrà avanti con forza. Tenga conto che noi abbiamo votato contro, dico noi intendendo un gruppo molto ampio e articolato di deputati e senatori. Quanti siete Camera, più o meno, Fitto? Ma, insomma, siamo in circa una quarantina, ma non è questo il tema. Possiamo essere anche 30, 20 o 50. E il tema è la linea politica, il tema è la battaglia, le idee nelle quali noi crediamo. E con questi colleghi abbiamo votato contro la riforma elettorale, che è stato un suicidio politico in diretta per il metodo e il merito con la quale e come è stata approvata. Abbiamo votato contro le riforme costituzionali, non perché siamo contro le riforme, ma perché non esiste dentro quel provvedimento nulla che possa lontanamente apparire almeno vicino alle tesi che per 20 anni noi abbiamo sostenuto. Le faccio due esempi, sì. Il tema del presidenzialismo e il tema della soppressione del Senato. Piuttosto che, con tutto il rispetto, trasformare il Senato in un dopolavoro ferroviario per i consiglieri regionali, penso che sarebbe più importante dare un segnale chiaro, per esempio la soppressione del Senato e superare realmente il bicameralismo anziché il pasticcio di fronte al quale noi ci troviamo. Allora, tutte queste questioni riguardano l'impostazione, i contenuti, la posizione politica di Forza Italia, e su questo noi siamo dell'idea che si debba aprire un confronto chiaro, serio, deciso. Questo vuol dire non essere contro nessuno. Io non ho mai offeso nessuno nel mio partito, né mai lo farò. Sono dell'idea però che ci sia bisogno di una discussione ampia, chiara, sulla linea politica e sull'organizzazione del partito. Onorevole Fitto, ma secondo lei la leadership di Berlusconi è sempre vincente in questo momento? Quando lei chiede le primarie, anche perché, insomma, al di là di altri vertici, anche proprio perché Berlusconi potrebbe fare il padre nobile a questo punto del partito e lasciare il posto? Ma come lo posso definire? È un'icona, e quindi non è che mi si mette in discussione l'icona, si mette in discussione tutto ciò che si fa. che gli sta facendo. Noi dobbiamo aprire la prospettiva futura e io immagino un centrodestra e Forza Italia che abbiano un ruolo nei prossimi anni, e questo è un tema ineludibile, non è contro nessuno, è una prospettiva politica sulla quale non possiamo non interrogarci e non darti delle risposte. Dobbiamo farlo responsabilmente e per questo ritengo che la classe dirigente del nostro partito debba iniziare a praticare il consenso non derivato, la nomina non dall'alto, ma la legittimazione dal basso. Mi sembra che sia un concetto quasi elementare in democrazia e all'interno della vita politica dei partiti, e siccome lo diciamo da molto tempo, noi non rinunceremo ad essere coerenti con le nostre idee, pur immaginando che gradualmente ci possa essere un consenso che è sempre maggiore, sempre crescente intorno a queste posizioni. Ma quando abbiamo iniziato a dire queste cose, lo scorso anno, eravamo pochini, oggi siamo molti di più, quindi siamo fiduciosi sul percorso da compiere. Fitto, però Toti in questi giorni ha detto due cose. Giorni fa ha detto: tendo la mano a Fitto, facciamo un patto generazionale per rinnovare la classe dirigente. Oggi ha detto: il patto Nazareno è rotto. Sono due cose a cui lei crede che succedono queste cose? Guardi, per quanto riguarda il tema dei ruoli, come è noto, sono almeno un annetto e mezzo che mi vengono offerti ruoli nel partito. Ci ho detto prima e lo ribadisco, la differenza è fra la nomina dall'alto, che io non condivido e che a me non interessa, e la legittimazione dal basso, cioè la scelta degli elettori. Quindi il terreno delle nomine dall'alto è un terreno che non mi interessa, diversamente non staremo a fare questa discussione, avrei forse già ottenuto alcuni incarichi che ho sempre puntualmente rifiutato, perché penso che non sia un problema di posizione personale, ma penso che sia un problema di prospettiva politica per tutti. La seconda questione altrettanto importante è quella del patto del Nazareno. Ora, noi non siamo contro le riforme, siamo, come dicevo prima, contro un meccanismo per il quale non tocchiamo palla e accettiamo tutto ciò che ci viene indicato da Renzi, abdicando e abbandonando a tutti quei concetti forti che noi abbiamo sostenuto tanto sulle leggi elettorali quanto sulle riforme costituzionali. Ecco, su questo vorrei tornare dopo, Fitto, le chiedo solo brevemente. Riferimento alla sua domanda, le cito San Tommaso: per poter credere bisogna vedere, quindi bisogna toccare con mano, bisogna avere la certezza. Vediamo se al Nazareno ci sarà un San Tommaso in risposta, vedremo. Vedremo. Invece su col nuovo centrodestra e Salvini, che rapporti pensa che sia giusto avere? Guardi, con la Lega non c'è dubbio che bisogna costruire un'alternativa a questo governo, quindi bisogna confrontarsi nel campo avverso a questo governo, e quindi gli ho risposto in una direzione e nell'altra. Noi lavoriamo nel centrodestra per costruire un'alternativa al governo di sinistra, al governo Renzi. E quindi la questione del governo è dirimente. Detto questo, noi dovremmo anche ritornare a parlare un po' delle questioni più nostre. L'idea che si perda il consenso senza capire le ragioni, l'idea sbagliata. Noi perdiamo il consenso perché abbiamo una posizione non percepita dai nostri elettori più, e che soprattutto non affronta e non rappresenta più le battaglie che in questi anni abbiamo rappresentato dal punto di vista del taglio della pressione fiscale, del taglio della spesa pubblica, del tema collegato ad una politica europea profondamente diversa rispetto a quella che viene portata avanti. E potrei continuare con tanti temi che sono solo questi quei temi che possono riaprire una prospettiva politico-elettorale. Su questo ci dobbiamo confrontare, quindi non si tratta di dire Lega NCD, è un discorso limitativo. Noi dobbiamo costruire nel campo alternativo a questo governo un programma che possa essere condiviso, che possa rappresentare milioni di elettori. Chi si riconosce in questo schema potrà e dovrà svolgere un'azione in questa direzione. Chi guiderà questo percorso lo decideranno certamente gli elettori. Mi dice l'ultima cosa, Fitto, quindi un po' l'ha detto in mezzo alle parole, qual è la stella polare, quale deve essere la stella polare di Forza Italia? Ma recuperare le nostre ragioni, i nostri valori di riferimento, mettere in campo una forza politica che sia in grado di poter rappresentare in chiave alternativa le politiche economiche di questo governo. Questo è un governo che ha confermato e aumentato la tassa sulla casa, questo è un governo che sulla spesa pubblica accenna a delle politiche che poi non realizza, il rapporto Cottarelli è chiuso in un cassetto e non se ne parla più, questo è un governo che aumenta la pressione fiscale sui prelievi, questo è un governo che fa finta di intervenire sull'IRPEF, sull'IRAP, scusi, questo è un governo che accenna con slogan tante cose, ma poi i dati economici ci spiegano come tutto ciò non accade, e questo è un governo che costruisce una polemica mediatica con i burocrati di Bruxelles e poi accetta le correzioni sulla legge di stabilità che intervengono in modo concreto su una riduzione di 6 miliardi della legge di stabilità, togliendo la possibilità di ridurre per 3 miliardi la pressione fiscale. Potrei continuare per un quarto d'ora ad elencarle i titoli, che sono tutti i temi per i quali gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, un mondo, un popolo che abbiamo rappresentato per anni, oggi non si sente rappresentato. Noi dobbiamo avere la capacità di interpretare di nuovo queste battaglie in forma alternativa a questo governo, in un confronto libero e democratico. Se noi invece diamo l'idea di andare dietro Renzi e di seguirlo senza una bussola politica, evidentemente lo spazio politico nostro non esisterà più. Questa è la prospettiva politica sulla quale dobbiamo lavorare. Quindi, per chiudere proprio, onorevole Fitto, se Berlusconi invece rimane, diciamo così, sordo a queste sue richieste, istanze, e continua nella linea del patto del Nazareno, insomma, con Renzi, e non segue le indicazioni che lei ha elencato, che cosa fa? Continua la battaglia dentro Forza Italia. Ah. Capisco che tutto questo è difficilmente comprensibile in questa fase, perché lo schema della politica negli ultimi anni ci ha abituato all'idea che se non si è d'accordo uno va via. Invece noi non siamo d'accordo e ci confronteremo all'interno del partito sulla nostra linea politica, perché il nostro obiettivo è la coerenza della nostra linea politica con i principi del nostro partito, e senza presunzione, se mi permette, noi siamo dalla parte del giusto, perché diciamo le cose che un partito di centrodestra dovrebbe dire e mantenere nei confronti degli elettori che ci hanno dato questo consenso. Bene, onorevole Fitto, la ringrazio e buona continuazione. Grazie, allora, grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Ringrazio Roberto per il suo bel messaggio al 349-238-6666. Continuano anche i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito del fatto che crediate o meno che il patto del Nazareno sia veramente rotto, come ha detto Totti. Abbiamo sentito prima qui a Effetto Notte Raffaele Fitto, che ha detto: io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo. Vincenzo, a proposito di questo, dice: non ci credo, credo che gli italiani si siano rotti. Antonio dice: il patto del Nazareno è diventato qualcosa di mitologico, ormai come il Sacro Graal addirittura. Christian: conseguenze della rottura del patto del Nazareno, Forza Italia al 9%, Lega al 20%. E Claudio Antonio scrive: nessuna conseguenza, il Berlusca è al tramonto, sostituito dal suo sosia più giovane con un partito più organizzato alle spalle, penso che si riferisca a Renzi, probabilmente riuscirà a fare anche delle riforme, quanto utili agli italiani non so, poi credo sia aiutato da una congiuntura favorevole. Ancora tanti vostri messaggi, però adesso vi ricordo quali sono le notizie in primo piano oggi. Patto del Nazareno, appunto, che si sfalda, e scontro totale tra PD e Forza Italia. Toti: per noi è rotto. Lotti e Boschi del PD dicono meglio così. Tsipras: con l'Unione Europea stiamo scegliendo la strada giusta. Continua nel suo tour europeo, oggi era a Bruxelles. E poi l'Unione Europea che dice che il PIL dell'Italia nel 2015 cresce dello 0,6%, mentre il deficit scende a 2,6%, e c'è una leggera salita del tasso di disoccupazione al 12,8%. La Giordania si vede indica del pilota arso vivo dall'ISIS, è stata giustiziata la kamikaze che l'ISIS voleva indietro, l'ira dell'imam contro i terroristi andrebbero crocifissi. Aereo urta un ponte dopo il decollo, 25 morti a Taiwan, e poi si fa luce sul mistero del fisico Majorana, era vivo dopo la sua scomparsa, di questo parleremo tra poco. E poi l'addio a Monica Scattini, l'attrice di tante commedie nel cinema e nella TV. E adesso parliamo di fronti di guerra. Da una parte la crisi ucraina, sapete che ormai sono almeno 10 mesi che nell'est dell'Ucraina si combatte una guerra tra regolari ucraini, l'esercito regolare, e i filorussi. Oggi nuovi bombardamenti hanno colpito un ospedale di Donetsk nell'est del paese, roccaforte dei separatisti filorussi. Almeno 5 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, e secondo le autorità locali i bombardamenti hanno danneggiato anche 6 scuole, 5 asili, e il governo di Kiev da parte sua riferisce poi di altri morti, e il presidente ucraino Poroshenko si dice sicuro che gli Stati Stati Uniti decideranno di inviare armi all'Ucraina. E infatti Ashton Carter, che è stato scelto dal presidente Obama come prossimo segretario della difesa americana, cioè il ministro della difesa, è molto incline, questa è l'espressione usata, a sostenere la fornitura di armi all'Ucraina da parte degli Stati Uniti, perché dice: abbiamo bisogno di aiutare gli ucraini a difendersi. Questo per quanto riguarda l'Ucraina. Dall'altra parte c'è la lotta all'ISIS, indignazione generale, mondiale, per la brutale esecuzione del pilota Giordano. Ieri è stato diffuso questo video che risale, pare al 3 gennaio, in cui è chiuso in una gabbia e gli viene lanciata addosso della benzina e poi gli viene incendiato, insomma. E ci sono delle prime crepe nella coalizione anti-ISIS, perché mentre ci si interroga se mesi di raid aerei in Iraq e in Siria abbiano realmente contrastato l'avanzata dei jihadisti, gli Emirati Arabi avrebbero sospeso la partecipazione ai bombardamenti in dicembre dopo la cattura del pilota Giordano, proprio per evitare ulteriori ostaggi e rappresaglie. E questo è un brutto colpo per il presidente americano Obama, che rischia di perdere il sostegno di un alleato chiave, gli Emirati Arabi, nella lotta agli estremisti sunniti. Una lotta per cui la Casa Bianca ha sempre voluto al suo fianco i paesi arabi moderati. Tra questi paesi c'è la Giordania, che oggi, per vendicarsi della morte così tragica del suo pilota, ha giustiziato, usiamo questi termini, la kamikaze irachena dell'ISIS, che l'ISIS voleva fosse scambiata, tornata indietro, insomma. E in più è notizia delle ultime ore, insomma, di un'ora fa circa, che però non è stata ancora confermata, una notizia che arriva via social network, secondo cui la Giordania, che aveva minacciato di far tremare la terra sotto lo Stato islamico, secondo un account Twitter vicina ai combattenti curdi, la Giordania ha bombardato Mosul nell'Iraq, uccidendo 55 membri dell'ISIS, tra cui un loro leader, Abu Obida al-Tunisian. Ne voglio parlare con Vittorio Emanuele Parsi, che saluto. Bentornato, Vittorio Emanuele. Esperto di geopolitica e docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Quindi questa pare sia la reazione della Giordania, dall'altra la coalizione che perde gli Emirati Arabi, e ci si chiede appunto se questi mesi di bombardamenti siano serviti a qualcosa per fermare l'ISIS. Vittorio Emanuele. La reazione giordana, se verrà confermata, è una reazione, perché si hanno colpito veramente 55 uomini dell'ISIS. È un colpo importante, un colpo pesante. La perdita degli Emirati, però, parliamoci chiaro, perdiamo un alleato tiepido, sospettato di avere finanziato Jabhat al-Nusra, quindi diciamo Al-Qaeda in Siria per lungo tempo, e sostanzialmente anche sospettato di essere stato molto vicino all'ISIS. E sono le contraddizioni della coalizione. L'efficacia dei bombardamenti da sola non basta, anche se va registrato che sul campo, dalle notizie che abbiamo, nelle ultime settimane l'ISIS è stato bloccato, è rimasto sulla difensiva, hanno dovuto arretrare nel Kurdistan siriano di fronte alla resistenza dei Peshmerga, sono fermi sulla linea di Mosul nel Kurdistan iracheno e non sono più avanzati, diciamo, nella zona di Fallujah, per cui sostanzialmente i bombardamenti da soli non consentono di sconfiggerli, ma consentono di arrestarli perlomeno. Quindi qualche efficacia ce l'hanno questi bombardamenti, la coalizione anti-ISIS internazionale? Qualche efficacia ce l'hanno sicuramente, non sono risolutivi, nessuna guerra può essere vinta solo con bombardamenti, è l'unico caso della guerra del Kosovo, ma in realtà perché c'è un apparato militare pronto di terra, pronto a intervenire, e Milosevic aveva troppo da perdere nello sfidare un'invasione di terra. Però io mi chiedo, Vittorio Emanuele, come mai una reazione, cioè una perdita così forte, se viene confermata appunto di 55 uomini tutti in un colpo dell'ISIS, come mai non si è potuto agire prima in questo senso? Cioè la Giordania, questa è una vendetta, una rappresaglia per quello che è successo al proprio pilota, nel senso, magari noi non lo sappiamo, ma nel frattempo altri bombardamenti hanno causato questo danno, diciamo così, all'ISIS? Beh, intanto perché, parliamoci chiaro, quando c'è una coalizione multinazionale che fa un intervento molto mirato, molto, molto limitato, parliamo anche di budget, quindi parliamo anche di missioni costose, eccetera. È chiaro che di fronte alla volontà di mettere in campo una rappresaglia per un atto così barbaro e bestiale come l'omicidio del pilota Giordano, la Giordania non avrà certo guardato né al numero degli aerei impegnati, per cui magari ha impegnato una parte consistente della sua flotta aerea, né diciamo così ha lesinato su bombe e carburante. Non dimentichiamoci, perché sennò abbiamo la memoria corta, che quando ci fu la guerra contro la Libia di Gheddafi, dopo una settimana di bombardamenti, gli inglesi e i francesi dovettero chiedere missili e bombe agli americani che non avevano più. Quando l'Inghilterra rafforzò il dispositivo aereo per l'offensiva contro Gheddafi, la RAF aggiunse un velivolo alla forza di bombardamento. Per cui questi sono poi i parametri di queste strane guerre che facciamo oggi, in cui siamo in guerra da un lato, ma dall'altro business as usual, tutto va avanti normalmente e tutto il resto della nostra società vive in pace, per così dire. Ti faccio un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto, Vittorio Emanuele. Se gli Stati Uniti davvero rifornissero, passando all'altro fronte di guerra, armi all'Ucraina, cosa potrebbe succedere? E questo non sarà preso bene dai russi, però va anche detto che io credo che una delle ragioni di questi massacri di civili da parte ucraina siano anche legati alla frustrazione di non potersi difendere sostanzialmente, di aver subito parecchie perdite tra personale militare, perché i ribelli ucraini sono filorussi, sono pesantemente armati, e loro invece, gli ucraini ufficiali, lo Stato ucraino non ha abbastanza armi pesanti, per cui la possibilità di avere un armamento più efficace, quindi di poter combattere, fronteggiare sul campo le forze militari ribelli, probabilmente consentirebbe di evitare paradossalmente questi massacri indiscriminati di civili. Grazie Vittorio Emanuele Parsi. Grazie. Grazie a voi. Ciao, buona Grazie. Serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Un messaggio di Nino che dice: chiede a Fitto, che ormai è tardi, di toglierci un dubbio. Berlusconi è un vecchio coglione, dice che si fa prendere per il naso da Renzi, oppure ha un disegno, ma quale? Si vedrà solo vivendo, probabilmente. Vi ricordo brevemente le notizie principali. Col patto del Nazareno che salta, secondo quanto dice Toti, il PD replica meglio così. Fitto di Forza Italia, con effetto notte, torna a chiedere primarie e azzeramento delle cariche. Il tour europeo di Tsipras, il primo ministro greco fa tappa a Bruxelles e Parigi, probabile riunione dell'Eurogruppo sulla Grecia l'11 febbraio. Il pilota arso vivo dall'ISIS, la Giordania si vendica, impicca la kamikaze del sedicente Stato Islamico e bombarda, avete sentito, Mosul, uccidendo 55 membri dell'ISIS. Taiwan, un aereo urta un ponte dopo il decollo, 25 morti, il caso Majorana di cui parleremo tra poco, il lutto nel mondo dello spettacolo con la morte dell'attrice a 59 anni Monica Scattini, il maltempo in arrivo, neve, temporali e mareggiate, poi la sfida di Coppa Italia Napoli-Inter. Europa 24 notte. Sono 278.000 i migranti che hanno attraversato illegalmente le frontiere nel 2014, due volte e mezzo rispetto al 2013, e circa il doppio del 2011, anno delle primavere arabe. I dati sono pubblicati da Frontex, un fenomeno, quello dell'immigrazione, sul quale si è fatto però molto poco durante il semestre di presidenza italiana, così lamenta Amnesty International. L'organizzazione, con sede a Londra, ha pubblicato oggi un documento di analisi su quanto fatto nei sei mesi di mandato. Il bilancio è deludente, dice il portavoce Riccardo Nuri al microfono di Alessandra Schepi. Poteva essere l'occasione per dare un'impronta all'Unione Europea, una spinta verso politiche di tutela, di promozione, di protezione dei diritti umani, particolarmente in campi quali la discriminazione nei confronti dei migranti, dei rifugiati, delle minoranze, inserire il tema dei diritti umani nelle relazioni con i paesi terzi. Tutto questo fondamentalmente non è successo e abbiamo visto anche delle azioni avvenute durante il semestre europeo, quali la chiusura dell'operazione Mare Nostrum da parte del governo italiano, che sono andate in senso contrario. Qualche passo in avanti è stato compiuto o è una bocciatura to court? Ma dal punto di vista del merito la delusione è forte, dal punto di vista della forma registriamo che non c'è stata una sola occasione in cui è stato possibile illustrare le nostre richieste alla presidenza italiana per tutti i sei mesi. Devo dire, il passo positivo che c'è stato è un passo un po' di routine, nel senso che la presidenza italiana dell'Unione Europea ha fatto la sua parte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in tema di pena di morte, la risoluzione c'è stata anche quest'anno, ma è qualcosa su cui ormai l'Unione Europea ha una posizione elevata, non è che l'Italia l'abbia migliorata, era già buona. Soprattutto quindi in tema di immigrazione, la mancanza più grave? Io direi che le politiche in tema di immigrazione dell'Unione Europea, che sono politiche di sicurezza, di controllo dei confini, sono quelle che destano maggiore preoccupazione e quelle su cui dovrebbe esserci una svolta profonda in favore del potenziamento della ricerca, del soccorso in mare, dell'assistenza ai migranti e ai rifugiati. L'Unione Europea ha dato un contributo sinceramente vergognoso al reinsediamento dei rifugiati siriani al quarto anno ormai di guerra. E accanto a questo la discriminazione sempre più forte in Europa avrebbe dovuto essere affrontata con una nuova direttiva più ampia, più includente, e su entrambi i fronti registriamo che non c'è stato alcun passo avanti. Amnesty International ha inviato al governo della Lettonia, che raccoglie il testimone dall'Italia, una serie di richieste, di raccomandazioni. Che cosa in particolare? Nel passaggio di testimone dall'Italia alla Lettonia rimangono in piedi tutte le preoccupazioni di Amnesty International. Di nuovo, i temi rilevanti sono politiche di segno diverso in tema di immigrazione, un approccio di contrasto alla discriminazione, alla xenofobia sempre più presente nell'Unione Europea, e porre la questione dei diritti umani nella politica estera dell'Unione Europea. Sono tre elementi su cui la Lettonia è chiamata a fare più dell'Italia. L'Italia è stato membro del trio di presidenza insieme a Lussemburgo e anche l'Italia dovrà fare la sua parte, o almeno dal nostro punto di vista iniziare a farla. Siete abbastanza fiduciosi sul fatto che la Lettonia riuscirà a raccogliere questa sfida? Potrei dire con una battuta che sarebbe difficile fare peggio, realmente non è stato fatto nulla di particolare, quindi è probabile che la Lettonia possa fare di meglio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora parliamo del suggestivo caso di Ettore Majorana. Se ne torna a parlare del geniale fisico catanese che alcuni esperti collocano addirittura tra Newton e Einstein, e che scomparve nel nulla nel 1938. È stato cercato per anni, su di lui sono fatti film, scritti libri, come il celebre caso Majorana di Leonardo Sciascia, con mille ipotesi. La più accreditata è che si fosse ritirato nella certosa di Serra a San Bruno in Calabria. C'era anche chi pensava che fosse suicidato. Poi arriva la procura di Roma che, indagando sulla sua scomparsa, ha accertato che Ettore Majorana era vivo nel periodo 1955-1959, quindi si dava per scomparso nel 38, ma dice che lì era vivo e si trovava volontariamente nella città venezuelana di Valencia. Quindi adesso la procura, dopo aver aperto un fascicolo nel 2011, ha chiesto l'archiviazione, quindi nessuna scomparsa dovuta a omicidio, suicidio, riparo in convento, come dicevano parenti e conoscenti, nulla di tutto questo secondo la procura. Probabile che lo scienziato, spaventato dalle conseguenze distruttive delle sue scoperte sull'atomo, ha deciso di sparire senza lasciare tracce, abbia organizzato tutto per non essere più ritrovato. Il procuratore di Roma aggiunto, Pier Filippo Laviani, in particolare ha accertato la fondatezza di quanto già avevano ipotizzato alcuni anni fa, ossia in una foto scattata in Venezuela nel 55, analizzata dai RIS dei carabinieri, Majorana, conosciuto col cognome Bini anche, appare con un emigrato italiano, Francesco Fesani, meccanico, e secondo i RIS quella è lui. Ne parliamo con il professore Erasmo Recami. Buonasera professore. Buonasera. Docente di fisica all'Università di Bergamo e ha scritto il caso Majorana, epistolario, documenti, testimonianze di Renzo Editore. Quindi insomma lei ha studiato a lungo il caso. È d'accordo con questo accertamento e poi archiviazione della Procura di Roma? Ma allora, premetto che nella mia situazione ogni mese quasi mi arrivano notizie anche eclatanti sul fatto, l'opera e la vita di Ettore Majorana. Io non ne parlo perché non ho mai tempo e modo di verificare le cose. In questo caso ci sono delle verifiche perché c'è l'opera dei RIS, dei carabinieri, e c'è l'inchiesta della Procura della Repubblica. Però io non sarei molto d'accordo, io già ero stato informato dei risultati dei RIS e non sarei molto d'accordo perché un cuoco o un esperto, un sommelier, per valutare un vino si basa di più sull'impressione, l'esperienza, il colore, il sapore, l'odore, piuttosto che sulle analisi chimiche o analoghe. E la mia impressione, conoscendo le fotografie di Majorana, il suo modo di scrivere, di vivere, io non sono molto del parere che la segnalazione sia veritiera, anche perché non ci sono, lui scriveva sempre, ha lasciato tonnellate di manoscritti scientifici che abbiamo pubblicato negli ultimi anni e avrebbe continuato essendo vivo, a scrivere e a produrre manoscritti. Invece non c'è uno straccio di manoscritto suo, c'è quella cartolina di Quirino Maiorana, dello zio, ma non è diretta a lui, e quello certo è un punto interrogativo, ma la mia impressione è che non ci sia molto di vero in questa identificazione. Quindi per lei rimane il mistero, insomma, per il momento. Evidentemente sì. Poi verrà fuori qualcos'altro e se ne tornerà a parlare. Intanto la ringrazio, professor Recami. Grazie a lei. Grazie, buona continuazione. Qui ci dobbiamo lasciare, vi lascio alla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi. Ringrazio Cristian Goldoni, alla parte tecnica Pietro Lacorte, e da Roberta Giordano. Buon Effetto Notte a tutti.